Badi Bambe. Kulondi Badi Bamba. Nasha Bambe. Kulondi Badi Bamba. Kulondi Badi Bamba. Mwanai mwenzela bumpoi. Mwanai mwenzela bumpoi. Poi mwambila kulondi bantu. Lelu walondi bantu wadifwishie. Ekele kele kele kele bantu bakeba lupambi. Lupandu li dimumashi amu kalenga Yezu. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Mwenzela bumpoi. Poi mwambila kulondi bantu. Lelu walondi bantu wadifwishio. Kele kele kele kele bantu bakeba lupandu. Lupandu li mumashia mukalenga Yezu. Yeah yeah yeah yeah. Yeah yeah yeah yeah. Badi Bambe, yeah, Nasha Bamba yo, poi mo bela mo panga yo, poi mo mbira kulondi manti yo, poi kulonda Badi Bamba, bela mo imu di Bamba mo di. Bena moyi mo biba mudini yo. Bena moyi mo biba mudini. Bena dishima ba mudini.